ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 18ª puntata. Comparve la piazza grande. Le porte della cattedrale erano spalancate, turchi entravano, uscivano con i mantelli rimboccati e fissati alla cintura, ma uscivano anche cavalli. Mazzapinta alzò al cielo gli occhi confusi, disse: «Le stalle ci hanno messo!» Ebbe un fremito, disse: «I cavalli mangiano sugli altari!» Nel frattempo eravamo arrivati all'ala del cortiglio, sul lato est della cattedrale, dove c'era la cappella dell'arcivescovo. Qua niente cavalli, niente schiamazzo. Mi colpì l'occhio come nell'avvicinarsi alla cappella i turchi si facevano composti, smettevano di parlare e arrivati sulla porta stavano prima immobili a testa bassa, poi piombavano a terra. «Qua hanno messo il loro Dio», disse Mazzapinta. Fra i turchi certi ci guardavano come se volessero sbranarci, altri passavano indifferenti senza nemmeno voltare la faccia verso di noi. «Che possano crepare», diceva ai primi Mazzapinta, al che Derao ripeteva: «Sta zitto per caso uno avesse a capire». A un tratto si rovesciarono sulla strada delle grida di donne. Dal vicolo del crismatico comparve un traino tirato da due cavalli, carico di otrantine sedute una sull'altra, abbracciate, aggrappate alle assi, con le vesti rotte e i capelli sciolti, pazze. Una di colpo crollava nel fondo, un'altra pendeva nello sforzo di buttarsi dalle assi, ma un turco che seguiva a cavallo il carro la spingeva subito dentro, come un mandriano quando le capre vengono dal campo e attraversando la strada si imbizzarriscono. Il traino sussultò, prese a dondolare per il carico e per la velocità, mentre il conduttore frustava con foga i cavalli e si sgolava a cantare. Era ubriaco fradicio, cantava per conto suo come se fosse in mezzo alla campagna e le fascioline del turbante si disfacevano sopra la faccia paonazza. Quando passò vicino a noi, io e Mazzapinta facemmo per buttarci, ma i soldati ci afferrarono per un braccio. «Fermi!» gridò un uomo nella nostra lingua, parandosi davanti a me. Lo guardai impressionato. «Sta fermo», ripeté. «Sei ammattito? Vuoi che ti ammazzino?» Alzato un braccio verso i soldati, disse due parole in turco e quelli si scostarono da noi. Il traino sballottato scomparve in direzione del porto, lasciandoci lì stupidi. Dove le portavano? Alla valona? E quando le avremmo riviste? «Se fate così camperete poco», disse lo sconosciuto. «E a te che importa?» gridò Mazzapinta. «Cola, quello ha ragione», io dissi. «Ma chi è?» borbottò Cristoforo Rio. «Io l'ho già visto». «Tu chi sei?» io ripetei, ma proprio mentre facevo la domanda mi si schiarì la memoria. Cadde un velo e vidi chi era. Era il cristiano rinnegato venuto a consigliarci la resa. «Sono quello che avete preso a fischiate quando vi volevo far ragionare», rispose senza scomporsi. Ci condusse al palazzo dell'arcivescovo. Mentre salivamo la grande scalinata di marmo disse: «Qua c'erano i preti una volta, no? Ora c'è uno dei comandi turchi». «Una volta», pensai, «sono appena 2 settimane». Arrivati al primo piano, entrammo nella grande sala dove l'arcivescovo dava l'unzione ai preti nuovi, ancora ornata di paramenti d'oro e cremisino, ma piena di tavoli e di turchi che si muovevano intorno ai tavoli dove altri turchi scrivevano. Non pareva lì dentro ci fosse stata la guerra, e nemmeno pareva di vedere dei maledetti pagani, ma dei copisti di cancelleria. «Guarda un po'», pensai meravigliato. Ogni tanto uno di quelli che erano seduti ai tavoli si asciugava il sudore, si alzava con qualche carta in mano e si accostava a un altro tavolo, mettendosi a parlare con quello che era seduto. Ma avevano l'aria di ripetersi delle cose che già tutti e due sapevano e che gli interessavano un fico secco, per cui si guardavano con la faccia seria e annoiata. Uno vicino a loro stava così immobile che non si capiva se leggesse o sonnecchiasse. Un altro alzò la testa dal suo tavolo e d'un tratto disse qualcosa a voce alta, risoluto, con l'aria che prende uno quando è capo. I vicini lo guardarono, ma nessuno rispose. Il cristiano rinnegato andò a parlare proprio con costui e subito tornò presso di noi. «Adesso si aspetta qui», disse. «L'ufficiale turco che vi deve prendere i nomi verrà». Stavamo tutti e sei immobili, vicini, con le ossa rotte, e in più a me continuava a girare la testa per via della febbre. «Ma voi da dove siete sbucati?» domandò il rinnegato. «Dal sotterraneo Fragà», rispose per tutti Cristoforo Rio. «Ieri sera da una grotta è uscita fuori un'intera famiglia», disse il rinnegato. Prese a guardare a destra, a sinistra, infine sbadigliò. Passò forse un'ora, ci avessero dato una panca almeno. «Sicché tu», disse a un tratto Mazzapinta, «ti sei fatto musulmano». «È cascato il caso», rispose. «E che hai lasciato la fede, non ti dispiace?» insisté Mazzapinta. «Le fedi valgono una l'altra», toccò via con un sorrisetto sulle labbra senza sangue. «Ma tu a Dio ci credi?» chiese brusco Mazzapinta. Fu curiosa la risposta che dette. Disse che se fossimo sicuri che Dio c'è, sarebbe una cosa tanto bella, tanto meravigliosa, che neanche ce lo potevamo immaginare noi che credevamo in lui, e che solo quando s'era persuaso di questo aveva lasciato perdere con l'abito da prete. «Da prete?» domandò stupito Mazzapinta. «Sì, ero l'arciprete Giovanni e vivevo in Calabria», scosse un braccio in aria. «Tempi lontani». In quel punto un giovane turco che poteva avere 20 anni, nel passarci accanto, levò su di noi gli occhi neri un po' estatici, gesticolò e, dopo aver fatto delle smorfie con la faccia come uno che vuol parlare e non ci riesce, disse nella nostra lingua: «Ora noi e voi pace». Restò in attesa con gli occhietti vispi che ci fissavano. «Magari», risposi io. Messasi una mano sul petto, le 5 dita spalancate, disse: «Khalil Beg». «Con la buona salute», risposi compiaciuto. Sorrise. «Guarda un po'», dissi fra me, e da capo tutto al mondo mi pareva incomprensibile. Intanto Mazzapinta si fece sotto al rinnegato. «E al diavolo ci credi?» «Quello poi!» esclamò lui con aria di superiorità. E pensare che ce l'aveva in corpo, abbracciato stretto all'anima sua. Per mio conto Mazzapinta avrebbe fatto meglio a stare zitto, ma a lui era sempre necessario parlare. Io invece tacevo. Mi faceva simpatia quel Khalil Beg con la faccia aperta e sorridente, con il trasporto che hanno i giovani appena un sentimento gli passa nell'anima che pare subito gliela scaldi. «Quello crede che ci siamo fatti musulmani», borbottò Cristoforo Rio. «Va a capire», risposi. Mi venne un'idea. Messomi di fronte a Khalil Beg, gli dissi, scandendo le parole: «Noi sei fame, molta fame». Lui mi guardò un momento con curiosità, perplesso, occhietti spalancati, poi la faccia gli si illuminò e, battuta 2 o 3 volte l'aria con il palmo della mano che diceva «aspetta, aspetta», si precipitò giù dalle scale. Proprio nello stesso momento salivano 2 turchi a torso nudo, mani legate dietro la schiena, testa bassa, scortati da altri 2 che subito andarono a presentarsi al capo degli scrivani, quello che prima solo s'era messo a parlare a voce alta. Costui ascoltava, aggrottando le sopracciglia e arrabbiandosi man mano che i 2 parlavano, finché prese addirittura a sbraitare nella sua maledetta lingua. «Quelli saranno fustigati», ci spiegò il calabrese. «E perché?» domandò Mazzapinta. «Li hanno trovati che facevano l'amore con 2 femmine in un cortile alla luce del giorno». «Disgraziati con le nostre donne», gridò Mazzapinta. Il calabrese disse: «Nel Corano è scritto che l'amore si deve fare in un luogo oscurissimo, perché l'uomo non veda la vergogna della donna e la donna la vergogna dell'uomo». «Hai capito?» disse a me Mazzapinta. «Canaglie!» Era quasi mezzogiorno ormai. Il vuoto nello stomaco cresceva dopo il lungo digiuno, facendosi più tremendo alle ore dei pasti, come se lo stomaco continuasse a ricordarsi degli orari. Se uno di noi sbadigliava, subito un altro faceva lo stesso, e dentro pochi minuti lo seguivano i rimanenti, ciascuno a seconda della sua natura. Quanto a Mazzapinta, spalancava la bocca e finiva in un grande «ah!» sospiroso, perché per lui era impossibile essere in un posto e non farsi sentire in qualche modo. Finalmente il turco che noi si aspettava arrivò, sedette pure lui a un tavolo e mentre dava un'occhiata agli incartamenti prese ad ascoltare contemporaneamente il rinnegato che con voce umile e dolce lo informava di noi. Dopo averlo ascoltato, fattici schierare quanti eravamo, cioè sei, davanti al suo tavolo, ci guardò con attenzione uno per uno, comparandoci e cercando nello spazio di un minuto di ricavare le differenze. Infine prese a chiederci il nostro nome. Appena lo avevamo detto, portava un dito color marrone su una carta che aveva davanti a sé e lo faceva passare su tutti i nomi che c'erano notati. Da ultimo scriveva i nostri. Quando arrivò a Kola Mazzapinta disse: «Ma quanti Kola ci sono in questo paese?» Parlava bene la nostra lingua. Ci domandò dove avevamo passato il giorno e la notte dopo l'apertura della breccia e l'entrata dei turchi. «Nel sotterraneo del Palazzo Fragà», disse Mazzapinta per tutti. Allora volle sapere se c'eravamo andati prima o dopo l'apertura della breccia. «Dopo, si capisce», disse Mazzapinta. Il turco lo fissò. «Perché si capisce? Perché andarci prima era cosa sconveniente?» disse Mazzapinta. «Era vigliaccheria». Sulla faccia del turco passò uno sprazzo, come se gli fosse venuta voglia di sorridere e si fosse trattenuto. «C'è capitato un buon diavolo di turco», pensai. «Si vede che la brava gente c'è pure tra i pagani». «Quando siete usciti, cercavate di fuggire?» domandò. «Che io mi danni l'anima», disse Mazzapinta. «Volevamo consegnarci». «Quanto avete per il riscatto?» domandò il turco. «Noi», farfugliò Mazzapinta, «non abbiamo denari, ma possiamo fare qualunque lavoro, qualunque fatica ci ordinate». Era un tipo curioso quel turco, né giovane né vecchio, forse sui 40. Alla risposta di Mazzapinta cadde in una sorta di distrazione, come se quelle parole gli avessero fatto venire in mente altre cose, lontane dal suo ufficio e dalla stanza in cui ci trovavamo, cose che alla sua faccia non parevano allegre. Disse: «Non avete nessuno che può pagare per voi?» «Noi siamo tutti e sei pescatori», rispose Mazzapinta. «Il mare ci dà da mangiare». «Il mare non paga», sospirò a voce bassa il turco e scrisse qualche cosa sulla carta. Poi disse: «Ora andrete con gli altri, si deciderà per tutti insieme». Il calabrese, come sentì che dovevamo andare insieme agli altri, chiamò due guardie e ci affidò a loro perché ci scortassero fino al castello. Così ci mettemmo per due e cominciamo a scendere pensierosi le scale. Eravamo ormai agli ultimi gradini quando Mazzapinta disse: «Tu guarda». Fermo ai piedi delle scale, Khalil Beg impugnava una bella focaccia d'orzo e dondolava la testa ammiccando. Si fece incontro a me, mi passò la focaccia, disse: «A tutti». «Che Dio ti benedica», gli risposi, e lui scoppiò a ridere. Le guardie lasciavano fare. Erano tipi curiosi le guardie turche, sempre pacifiche e assonnate. Infine mi parevano meglio dei soldati spagnoli, non fosse stato che erano pagani, non c'era da lamentarsi. Khalil Beg non aveva voglia di lasciarci, soprattutto di lasciare me. Dovevo avergli fatto simpatia come lui l'aveva fatta a me. Se fossimo veramente in pace, pensai, si potrebbe chiacchierare. E quando lui avesse imparato la nostra lingua, gli spiegherei che il suo dio è una fandonia, un'invenzione senza nessun principio. «Voi dove?» domandò Khalil Beg. «Nel castello», io risposi. «Giù, giù», e feci segno sottoterra. Smise di sorridere e fissandoci disse: «Voi, buoni uomini, niente paura». Lo guardammo in silenzio, poi Mazzapinta disse per tutti: «Addio», e Khalil Beg risalì di corsa le scale. Attraversammo da capo Otranto, mentre a me pareva che nell'aria del meriggio ci fosse una cosa nuova che saliva dalla terra, mai conosciuta, una cosa straniera che riempiva le strade e le piazze, come in tempo di pestilenza quando tu sei sano, ma senti che da un momento all'altro quella cosa ti può piombare addosso e allora è finita. Giunti in vista del castello, Derao disse: «Io credo che adesso deve venire un momento difficile per noi. Vorranno qualcosa quelli, ma cosa vorranno?» «Però non saremo più soli», io risposi. «Ci sarà Mastro Natale a consigliare». Essendo stati ammucchiati tutti gli otrantini nei tre sotterranei del castello, noi fummo portati in quello di mezzo. «Qua si passa da una cantina all'altra», disse Mazzapinta, siamo diventati sorci. Devo dire la verità che quando scendemmo le scale interne del castello e vidi tutti quei corpi di otrantini stipati, giovani e vecchi, che levavano le braccia verso di noi gridando ne arrivano altri, mi fece l'effetto come se attorno a quei corpi girasse invisibile l'ombra della morte. «Ma da dove venite?» domandavano tutti. «Siamo stati nascosti nel sotterraneo fragà. Oh, guarda, vi hanno presi!» «Ci siamo consegnati, si moriva di fame.» «Ma qua neanche si mangia», disse qualcuno. «E che avete fatto?» «Ma...» io risposi. «È successo di tutto. C'è Mastro Natale?» «Sì», disse uno. «È seduto sotto l'arco.» Passati in mezzo alla folla di otrantini, scavalcando quelli seduti a terra, arrivammo fino a lui. «Mastro Natale, che si fa?» io domandai. «Si aspetta», lui rispose. Era più magro e più pallido il vecchio, ma sempre aveva gli occhi pieni di forza e di precauzione. «Se avessimo avuto denari ci saremmo salvati», io dissi. «Finire bene è facile quando si hanno denari.» Al vespro si sparse la voce che Ahmed Pascià in persona veniva a parlarci e che bisognava far molta attenzione perché era un uomo furioso, ignorante e crudele, in quanto dal nulla per le sue ruberie e devastazioni era diventato Pascià niente di meno che da stalliere del sultano. Siccome la città era infetta di cadaveri e aveva le strade ancora insanguinate, lui si era fatto piantare il padiglione sul colle della Minerva, a 300 passi dalla città, e lì se ne stava seduto a gambe incrociate sui tappeti mentre i cortigiani gli facevano aria coi ventagli di penne di pavone. Lasciato il nostro posto, ci trovammo ammassati nel cortile grande del castello, dove in tempo di pace i soldati spagnoli e napoletani facevano chilometri marciando avanti e indietro, girando di colpo a sinistra, poi di colpo a destra, agli ordini fanatici di una voce che si sentiva gonfiarsi fin dalla piazzetta. Quando la marcia era finita, uscivano con la faccia stupida di fatica e piena di sudore, senza aver fatto niente che servisse a qualcuno. Eravamo forse da mezz'ora radunati, ed ecco che rintronarono sul lastricato le ruote d'una carrozza. I tamburi suonarono e comparve il pascià. Piccolo di statura, nervosetto, bruno di pelle e nasuto assai, portava un gonnellino rosso a bordi neri e in capo un turbante bianco. «È quello?» domandò meravigliato Mazzapinta. «Eh sì», io dissi. «Alla malora, all'aria di un verme. Guarda», dissi, «c'è pure il calabrese rinnegato. Farà da interprete», rispose Mastro Natale. I cortigiani del pascià stavano schierati dietro a lui, immobili, con il capo basso e le mani giunte alla cintura, che si sarebbero dette legate. Il pascià, dopo averci guardato con occhietti duri, cominciò a parlare e il calabrese a tradurre. Disse: «I vostri capitani e governatori furono dei porci e per questo voi siete finiti così. Nel Corano è scritto: l'albero nutrito nelle terre sterili produce frutti alla terra uguali, e per questo voi adesso siete servi.» Essendoci noi incantati a guardarlo, c'era un silenzio perfetto nel cortile e in mezzo ad esso si levava la voce rozza e volgare del pascià, voce di stalliere, mentre il calabrese traduceva con aria dolce e untuosa, come ci volesse confortare. Il pascià si rizzò quanto poteva sul suo corpiciattolo, guardandoci con occhi provocanti, scosse la gonnella, gridò: «Se i vostri capi vi hanno ridotto alla schiavitù, noi vi vogliamo aiutare. Abbiamo intenzione di ridarvi le vostre donne, i figli, le case, senza chiedervi denari. Una cosa sola vi si chiede: lasciare la fede sbagliata in cui vi hanno insaccati e prendere quella giusta che predicò sulla terra Maometto, vero profeta di Dio.» Alle ultime parole tutti i turchi fecero una specie di riverenza, mentre il pascià, preso in mano un bastoncino di avorio, lo agitò nell'aria, gridando a gola piena: «Vedete quella porta?» Era la porta che dava sul cortiletto di guardia. «Chi vuole avere vita libera, ritrovare la moglie e i figli, venga avanti ed esca da quella porta. Avanti!» Passò qualche minuto, lungo ognuno come ore, tanto l'attesa era spaventosa. Tutti ci guardavamo, nessuno si muoveva. «Che Dio mi perdoni, forse se si fosse mosso qualche altro gli sarei andato dietro, ma primo a muovermi questo no.» «Avanti, decidetevi», diceva il calabrese con un sorrisetto agretto sulla faccia. «Non impuntatevi come le capre, andiamo!» Niente. Tutta la vita dentro ognuno di noi s'era fermata. Il calabrese cominciò a scuotere il capo con l'aria di dire «Su, da bravi, non fate sciocchezze inutili!» Allora al pascià vennero le convulsioni. «Volete restare cristiani? Non ubbidite agli ordini?» Nel silenzio che seguì si levò una voce. «Vogliamo restare cristiani?» Era la voce di Mastro Natale. Il pascià, domandata la traduzione al calabrese, si drizzò da capo tutto piccolo com'era, puntò nell'aria il lungo naso e cominciò a urlare. Era uno sconquasso di parole a sentirlo, tanto che il calabrese se ne stette quieto e zitto finché il terremoto finì. Poi cominciò a tradurre. Disse che i vinti infedeli non potevano essere lasciati in vita e che quindi noi dovevamo andare a morire. Ci avrebbero tagliato la testa e distrutto così tutto il nostro seme di porci. Il pascià, senza neanche aspettare come la prendessimo, di botto si voltò, al che i cortigiani piombarono in ginocchio, ma presto alzati si levarono le mani al cielo, le abbassarono, si toccarono gli occhi e fecero ala al suo passaggio. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.